O sacci, io solamente che la caccio passato quando l'angelo è volato, che la caccio passato quando l'angelo è volato, quando l'angelo è volato, caccio passato. Una voce mo ripete, non perdere più tempo, circa essere felice, non perdere più tempo, circa essere felice, circa essere felice, non c'è sta tempo. Quando è santo no pensiero, e cantano soltanto quando è santo no pensiero, quando è santo no pensiero, canta l'uccello. A bocca è come rosa, quando parla d'amore te ne spini in te parole, quando parla d'amore te ne spini in te parole, te ne spini in te parole, si dice amore. A vita è come a morte, stanno vicine casa, non si può appiccicare, stanno vicine casa, non si può appiccicare, non si può appiccicare, sono una cosa. E tu figlia Maria, tu non sei manco nata, già sei stata condannata, tu non sei manco nata, già sei stata condannata. Già sei stata condannata appena nata. E figli son che Dio, e non si tocca niente quello che è stata creata. Quella che è stata creata, non ce l'hanno mai imparata, non ce l'hanno mai imparata, chi stu creata.